Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay amici. Ho esitato tanto prima di scrivere a Project e poi mi sono deciso. Intanto per dire che questi blog e il forum non li leggono solo i ragazzi, ma pure gli anziani come me, che forse sono perfino più grande di Project. Di anni ne ho 59. Project lo sa che cosa vuol dire, e quelli che sono ragazzi non lo sanno. Magari loro pensano che a 60 anni è come a 20. Io scrivo per raccontare quello che mi è capitato, tra capo e collo, a 59 anni. Una cosa molto bella in un senso, ma molto faticosa in un altro. Io praticamente, fino a 58 anni, ho vissuto da solo. Ho un buon lavoro, negli anni mi sono comprato una casetta, stavo tranquillo. Gay sì, ma non lo sapeva nessuno, proprio nessuno. Project lo sa, ai tempi nostri se ne parlava poco. A 54 anni ho avuto grossi problemi di salute. Ho capito che cosa vuol dire essere gay quando stai male e hai bisogno degli altri. Io ho 2 fratelli e 5 nipoti. Abitano tutti a Bari come me. Ma di me se ne sono fregati tutti. Sono stato solo come un cane. Mio fratello grande, che ha 62 anni, l'unica volta che è venuto a trovarmi, si è messo a parlare col figlio di quello che dovevano fare di casa mia dopo che io fossi morto, perché loro pensavano che non li potevo sentire, e invece io ho sentito tutto, proprio tutto. Poi, grazie a Dio, sono riuscito a uscire dal malanno e non ci credevano nemmeno i medici. Mi avevano dato per spacciato e io me la sono vista proprio brutta. Ma poi, forse perché mi hanno curato bene, insomma, a 58 anni io dal guaio ne sono uscito. Faccio sempre i controlli, ma adesso mi dicono che non ho più rischi di uno qualunque. Prima pesavo 85 kg, dopo ne pesavo 66, però ero vivo e mi sentivo pure meglio. Così, a 58 anni, la mia vita è ricominciata da capo e mi sentivo proprio forte. Però solo ero prima e solo ero dopo. A palazzo mio viene a abitare un signore, uno che io non conoscevo. Un bel signore, ma non giovane. Sui 50-55, vestiva molto di scuro, come se portasse il lutto. Io ho chiesto al portiere e mi ha detto che era un medico del policlinico che era rimasto vedovo da poco. Quando lo vedevo per le scale lo salutavo, ma non avevamo confidenza, praticamente niente. Una sera viene alla riunione di condominio e facciamo tardi. Si mettono a discutere e non la finiscono più. Io ovviamente ci vado solo per fare numero, non mi metto nemmeno a litigare con tutti quelli che non pagano neanche il condominio e poi dicono sempre che i ladri sono gli altri. Io osservo quel signore. Quello non diceva una parola, stava lì solo a sentire. Quella per lui probabilmente era la prima riunione di condominio, almeno in questo condominio. Passiamo la serata a aspettare che la gente si sfoghi un pochettino. Non capiamo niente, non seguiamo la discussione né io né lui. E già mi risultava simpatico. Però sai, un vedovo, non è che ci potevo fare troppo affidamento, non ci potevo pensare troppo. Alla fine ci siamo presentati. Mi sembrava proprio una brava persona. Così, piano piano, quando ci si incontrava per le scale, diceva qualche parola in più, poi mi ha detto che faceva il medico, io gli ho raccontato della malattia mia, e lui mi ha detto di portargli le carte a casa sua, in serata, che le voleva vedere. La sera ci siamo visti e lui ne capiva proprio tanto. Mi ha spiegato bene un sacco di cose, mi ha chiesto quale dottore mi aveva seguito, mi ha detto che era uno dei migliori, che lui lo conosceva benissimo e mi ha pure confermato che oramai ne dovrei essere uscito completamente fuori. Io lo sapevo già, però una cosa del genere, sentirsela dire, fa sempre piacere. Gli ho chiesto della moglie e mi ha spiegato che per lei non c'era stato niente da fare. C'era una fotografia della moglie, molto bella, una bella signora, sorridente, e poi ce n'era uno di loro due a Vienna con lo sfondo della cattedrale di Santo Stefano. Mi ha detto che era una foto di 25 anni prima, cioè nel tempo del viaggio di nozze. Io ho fatto le condoglianze per la moglie. E gli ho chiesto se aveva figli. Lui mi ha detto di no e ha aggiunto: ma è una lunga storia. Poi lui ha chiesto a me se io avevo figli e gli ho detto che non ero sposato e ci siamo lasciati così. Insomma, piano piano tra noi si è creato un certo rapporto di amicizia, va. Io non è che mi potessi mettere in testa chissà che cosa, quindi diciamo che avevo trovato un amico, che era pure una cosa importante perché coi parenti miei avevo proprio tagliato tutti i rapporti. E un'amicizia così mi faceva piacere. Un medico competente e poi una brava persona, uno dignitoso, non impiccione. E allora mi dicevo che pure tra gli etero ci stava tanta brava gente. Io allora ancora lavoravo. Non stavo in pensione come adesso e tanto tempo per pensare alle cose mie e non ce l'avevo proprio. Però questo signore mi piaceva, proprio come persona, era una brava persona. Poi viene a un'altra riunione di condominio e ci salutiamo e ci mettiamo vicini, ma l'amministratore non arriva e la gente si comincia a spazientire. E una delle streghe del condominio viene dove stavamo noi e attacca una storia su due ragazzi che vivono nel palazzo nostro. Quelli sono sicuramente due ragazzi gay, ma gente dignitosa, proprio bravi ragazzi. E io ne ho avuto subito simpatia, appena sono venuti a stare da noi. E sono pure dei bei ragazzi. La signora se ne esce con: ma voi non l'avete ancora capito? E il dottore l'ha fatto: che cosa? E lei: ma quelli sono due omosessuali. E il dottore fa: e allora? La signora prova la filippica della morale del palazzo: ma pensa che quelli sono come noi? Ma il dottore risponde: signora, quelli hanno gli stessi diritti che a lei, tali e quali. A me mi è venuto da pensare che la signora diceva quelli e noi, e il dottore diceva quelli e lei, e non è per niente la stessa cosa. Il dottore non si metteva proprio nella categoria della signora, nemmeno dall'altra parte, ma nella categoria della signora no. Per lui la distinzione tra noi e loro non funzionava. Una cosa del genere non era indifferente, però quello era vedovo e a casa sua c'erano le fotografie della moglie e del viaggio di nozze. Però c'era pure il fatto che non avevano avuto figli e lui aveva detto che il fatto di non avere avuto figli era una lunga storia. Mi sono fatto coraggio e alla fine della riunione gli ho detto che mi era piaciuto molto come aveva risposto a quella signora e lui mi ha detto che quei poveri ragazzi lì li dobbiamo lasciare in pace, che quelli si devono vivere la loro vita come si deve. Io gli ho detto che per quei due ragazzi avevo molta simpatia e lui mi ha risposto senza esitare, anche io. Qualche giorno dopo è capitato che io stavo parlando col dottore nell'androne del palazzo. Allora ancora ci davamo del lei e quei due ragazzi sono entrati. Noi li abbiamo salutati e ma è stato un momento particolarissimo. Abbiamo avuto l'impressione nettissima che i ragazzi avessero una simpatia per noi. È stato proprio uno scambio di sorrisi, una cosa molto particolare. Poi loro sono saliti e io sono rimasto col dottore a parlare. È stato là che il dottore mi ha detto: "Ma perché non ci diamo del tu?" E abbiamo fatto le presentazioni. 10 minuti dopo mi ha chiesto se mi andava di cenare da lui quella sera oppure il giorno appresso. Io ho detto di sì e alle 8 stavo da lui. Piano piano abbiamo preso l'abitudine che lui veniva a cena da me un sabato sera, e io da lui il sabato successivo. Quando mi vedeva per le scale, mi diceva: "Ci vediamo sabato", e io il sabato aspettavo. Così, a scambio di visite e di inviti a cena, siamo stati quasi 6 mesi. Poi è successo un fatto nuovo. Una sera vado da lui, ormai c'era una certa familiarità, e mi dice che mi vuole fare una domanda. Premette che se voglio posso benissimo non rispondere, ma che ci terrebbe moltissimo a avere una risposta sincera, e mi chiede perché non mi sono mai sposato. E io mi sono sentito in imbarazzo. Lui se ne è accorto e ha detto: "Scusa, allora te la dico io una cosa, io sono gay." Beh, ci sono rimasto di sasso, una cosa simile non me la sarei mai aspettata. C'è stato un silenzio lunghissimo, non sapevo proprio che cosa fare. Io di me non l'avevo mai detto a nessuno, ma non potevo non rispondere e non lo potevo nemmeno imbrogliare. Dopotutto lui aveva rischiato moltissimo. Insomma, dopo parecchi secondi che non mi dimenticherò mai, gli ho detto: "Pure io sono gay." Ha tirato un profondissimo respiro di sollievo. Si vedeva che doveva avere passato dei momenti di ansia molto profonda. Poi mi dice: "Adesso mettiti a tavola e mangiamo, e dopo ti racconto tutto." Dopo cena ci sediamo in salotto e mi racconta la sua storia. Si era sposato a 25 anni. La moglie non sapeva che era gay, perché lui non gliel'aveva detto e pensava che la cosa l'avrebbe comunque superata. Ma per lui un contatto sessuale con la moglie era una cosa innaturale, qualcosa di strano alla quale non si sentiva proprio portato. Ma la moglie di lui era innamorata realmente e anche lui le voleva bene, ma in un altro modo. Lei avrebbe potuto chiedere l'annullamento del matrimonio, ma non voleva mettere il marito in difficoltà e poi lo amava. In sostanza hanno passato insieme più di 25 anni di una vita matrimoniale che era in pratica un bel rapporto di amicizia. Lui parlava con la moglie delle sue fantasie gay, che però restavano sistematicamente solo fantasie, un po' perché lui non voleva complicazioni e non si voleva compromettere, e un po' perché il rapporto affettivo con la moglie aveva finito per essere una cosa veramente seria. Quando sono tornato a casa mi sentivo stranissimo. Non facevo che pensare a tutto quello che mi aveva detto lui. Pensavo a che cosa sarebbe successo dopo, ma ve lo devo dire subito, non è successo niente di quello che voi potreste aspettarvi. Non so nemmeno dire se mi sono innamorato del dottore o se lui si è innamorato di me. Francamente non abbiamo mai avuto rapporti sessuali, in primo luogo perché lui non era affatto incline a queste cose, in secondo luogo perché non era quello il tipo di attrazione che io provavo verso di lui. Però, a nostro modo, ci amiamo, meglio, diciamo che ci vogliamo bene. Non so se a voi questa sembra una storia gay oppure un'assurdità, perché mi rendo conto che qui ci manca il finale della favola, però le cose sono andate proprio così. C'è stato un momento in cui mi sono sentito molto in difficoltà. Una sera mi dice: "Ti dispiace se la prossima volta che ci vediamo non siamo soli?" Gli dico che possiamo benissimo vederci pure un altro giorno, ma mi risponde che ci tiene moltissimo che io ci sia. Io chiedo: ma chi è? E lui mi dice che è una sorpresa. Io non ho la faccia di dirgli di no, ma temo che lui mi voglia presentare qualcuno e sono molto in imbarazzo. Anzi, diciamo la verità, sul momento l'ho proprio odiato per questa proposta. Mi si era squalificato di colpo, non lo stimavo più. Mi chiedevo come avessi potuto perdere tempo appresso a un individuo così grossolano, come avessi fatto a non capirlo fin dall'inizio. Nei giorni successivi mi accennava sempre a sabato e questo mi irritava moltissimo. Finalmente il sabato arriva. Mi vesto bene perché so che ci saranno ospiti e mi presento a casa sua. Mi fa sedere, mi dà un aperitivo, poi suonano. Io sento salire una specie di fastidio per la recita che sta per cominciare. Poi mi vedo davanti i due ragazzi del quinto piano. Mi giro verso di lui con uno sguardo che diceva tutto. Posso solo dire che è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Che ragazzi erano quelli e come ci si stava bene. Adesso voi mi potete dire che la cosa vi sembra strana, però questi sono momenti di felicità che non si dimenticano più. Anche questo è essere gay. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.